Teresina, formichina, si alza presto la mattina. Quante cose deve fare, riposare mai non può. Corre qui, corre lì, sempre in moto tutto il dì. Chi lo sa, chi lo sa, tutto il giorno cosa fa. La Teresina ogni mattina deve lavare, deve stirare, 2000 stanze deve pulire, 2000 calze deve cucire, 2000 letti deve rifare, 2000 piatti deve lavare. La poverina quando viene notte con le ossa rotte a letto va. La poverina quando viene notte con le ossa rotte a letto va. Disse il grillo, Teresina, questa vita non puoi fare, pianta tutto, lascia andare, vieni a vivere con me. Per un po', per un po', Teresina disse no, ma finì, che quel no divenne un sì. La Teresina ogni mattina può riposare quando gli pare, solo due stanze deve pulire, solo due calze deve cucire, solo due letti. Non le piace quella vita, preferisce lavorare, stare in ozio non le va. È tornata a casa sua e 2000 cose fa. Canta sempre tutto il giorno e felice a letto va. E felice.